24 mattino. E rieccoci, 8, 19 minuti, 29 secondi, è giunto il momento dei cani e dei gatti. Voglio dirvi una cosa. Voi non potete vederlo perché magari anche nello streaming lo vedete a mezza figura, ma oggi Oscar ha la mimetica. Beh, ragazzi, caro fratello, ci svegliamo con la Germania italiana, io sono pronto a scendere in trincea. Sì, perché è fallita, come dicevamo nella segna stampa, la coalizione Giamaica, i liberali si tirano fuori e provano il colpo, Oscar. O incassano voti perché saranno quelli che materanno la Merkel, oppure verranno puniti. Oppure verranno puniti, perché non è detto che poi i tedeschi amino molto questa sprizzata di instabilità italiana. I miei amici stamattina a Berlino mi dicevano: ma l'avresti mai detto? Siamo italiani anche noi. Esatto, è la Germania che assomiglia all'Italia. Fratelli. È la Germania che assomiglia all'Italia o noi assomiglieremo alla Germania fra poco? Ecco, per il momento loro stemono a diventare come noi. Io vivo nella speranza che noi diventiamo anche un po' come loro, però vediamo. Poi, naturalmente, in attesa per il voto oggi a Bruxelles, con questo ridicolo, perdonatemi, il modo con cui votano per l'attribuzione dell'EMA a Bruxelles è ridicolo. Se fosse adottato in Italia, tutti ci direbbero la qualificazione che siamo dei Bisanzio mondiali. E quindi diciamolo anche noi di loro, 3 voti, 2 voti, 1 voto. Schede vanno bruciate. È morto Charles Manson, che forse ricorderete, negli anni 60 si macchiò di una serie di omicidi satanici fino a diventare un archetipo di questo tipo di delitto. Aveva 83 anni, ha tirato le cuoia. Beh, devo dire che non... Ti piace la violenza di questa espressione? Tirare le cuoie? Non troppo, dire la verità. Dà l'idea però quando si muore di morte violenta. Nel suo caso è morto dietro le sbarre perché non meritava altro, più che altro. Ma pensa che ha continuato a ricevere lettere di ammiratrici e ammiratori. Sì, che volevano sposarlo a 83 anni. Il mondo è pieno di pazzi, Oscar, pieno. 800 24 00 24 per chiamare sui tanti temi che friggono nella pentola. 02 30 22 44 92, i vostri messaggi in segreteria e gli sms che ci aiutano a navigare, 349 238 6666. E hai visto la cosa che dicevamo, che la sentenza Berlusconi, lo spiega bene il Sole oggi, il Sole, con sì, un'indagine sui tribunali, sta riscrivendo il diritto. Niente più mantenimenti dorati, caro Oscar, lo dico anche a te. Io lo so, ma io in questo caso ho una moglie che spero possa mantenermi. Sono una povera partita IVA, tu dimentichi. Mia moglie ha reddito fisso, è un ruolo di dirigente, quindi speriamo che mi mantenga a lungo. Se cambia idea mia moglie, dovrà mantenermi, cara moglie, capito? Mi è piaciuta molto, forse potremmo invitarla. Valentina Steinman è la mamma che ha inventato in Italia, cioè ha brevettato un nuovo modo di pannolino riciclabile. Sul Giorno, a pagina 18, si era seccata di pagare e lo ha costruito con dei materiali, una braghetta in plastica. Praticamente sostiene che si possono risparmiare 1500 euro a bambino. Beh, insomma, ho visto la notizia, effettivamente mi sarebbe stato di una qualche utilità negli ultimi anni e ancora continuiamo, però è una notizia ricorrente, le modalità del, diciamo, pannolini ecocompatibili anche col portafoglio risparmioso, più volte abbiamo letto. Poi anche i pannoloni, diciamolo, cioè i pannoloni lavabili, però quelli non sono comodi, inutile dire, ci abbiamo provato, almeno io ci ho provato, ma non funziona, quindi alla fine ti devi arrendere. Ma perché porti il pannolone? No, io io ho i figli grandi, il primo ancora stenta a spannolinizzarsi, quindi a lui, nel suo caso, essendo oltre i 20 kg, veramente bisogna parlare di pannolone. Un bel torello. Mamma mia. Senti, sei a lutto per la giornata calcistica di ieri? No, la giornata è stata stupenda, io ho vinto sia col Cagliari che con la Roma, per cui simpatizzo, quindi sono molto contento, però è stata una giornata spettacolare, devo dire, la partita di Genova sembrava folle, cioè tu immagini una partita in cui la Juve prima perde 1-0, poi tutti gli scommettitori, i tifosi pensano in un pareggio, perde 2-0, poi perde 3-0 e poi si scatenano i funamboli, non quelli di Milan, quelli della Juve. E vanno 3-2 al 93esimo, cioè è grande calcio, grande spettacolo. Sì, quest'anno devo ammettere. Mattavecchio viene sbullonato oppure no? Oh, ascoltatore protesta e dice: siete dei killer, state dopo Ventura e Tavecchio, chi dovete infangare mediaticamente? Io non capisco perché sia considerato infangare il fatto che in Italia si assuma il principio di responsabilità che viene chiaramente riconosciuto in tutto il mondo. Puoi essere bravo, puoi essere bello, ma sei pagato come una rockstar, perché quando perdi te ne vai, o no? Puoi tagliare le teste questo Oscar? Non so, io piuttosto invertirei la domanda, cioè chiederei quali sono gli argomenti in base ai quali è difendibile. Sarei curioso di capirle, ma non riesco a capire quali siano. Ma secondo me in Italia c'è l'idea, in molte persone, che non è giusto che se uno perde, se uno fa una bancarotta, se ne debba andare. Beh, è un'idea mutuata dalla politica, questa, mi pare di capire, e quindi loro credono che la politica sia una buona regola. No, anche la politica, quando è in Italia, fa eccezione a questa regola, quasi sempre, e si mette dalla parte dell'errore. Poi perde credibilità e si chiede perché. Beh, chi è? Guardati allo specchio. Quindi credo di no, credo che quella sia una buona regola da seguire, e sia incomprensibile perché con questi risultati ce la si possa cavare dicendo è solo colpa di Ventura. Ventura ha le sue responsabilità, però c'è un intero sistema calcio che è giocato e si è incardinato su queste scelte, e sono scelte che si rivelano sbagliate. Quindi grazie al cielo, chiedere semplicemente la somma e il rendiconto è un principio elementare di buon senso. Allora, fra poco i nostri ospiti, 800 24 00 24, ripeto, per chiamare. Sai che questa agenzia del farmaco potrebbe arrivare a Milano? Speriamo, il meccanismo è tale, e oltretutto quello che avviene in Germania in queste ore non aiuta, da poter far immaginare un andamento del voto illogico. No, perché siccome il secondo voto, quello a due voti, si dà a quelli più deboli, però passano solo le prime due, potrebbe passare una delle prime due inopinatamente e a quel punto vincere. Quindi purtroppo è un meccanismo davvero poco comprensibile, ecco. Allora scarichiamo subito la pubblicità e ci sentiamo fra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Cani e gatti. Pazzesco, era la gentile 4G. Ah, senti, si è inserita, dici, pagina ogni volta, dici. Dai, si è inserita in questo programma inopinatamente. Niente, 8:30 minuti, ascoltatori 47 del nord, secondi. Erigeremo una barriera contro questo inopinato attacco portatoci da Roma Ladrone. Barriera linguistica, Maria da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, vi seguo sempre, siete bravissimi. L'aveva riconosciuta la Gentili? Ah sì, sì, sì, l'ho riconosciuta. Una giornalista in gamba, devo dire. Ha una bella voce, eh? La ringrazio. Allora, di che cosa vuole parlare? Dunque, io voglio intervenire su questa faccenda dei divorzi, nel senso che credo che bisognerà rifare un po' questa legislazione sul serio. Esistono dei casi in cui ancora bisogna elargire questi benedetti assegni divorzili anche dopo mezzo secolo, con i figli dell'ex moglie già grandi e anche dopo la morte di questo disgraziato che, dopo aver fatto questo matrimonio, deve soffrire per tutta la vita di dare questi assegni. Quando esistono anche comunque delle mogli legittime, delle vedove con figli a carico, e succede anche che questi assegni divorzili vengano gonfiati, cioè oltre a quello che dovrebbe essere quello che il giudice decise quando ci fu il divorzio fra i due, e invece si gonfiano, e quindi il tenore di vita incredibilmente sale di questa ex moglie, mentre per le vedove e le mogli legittime viene, come dire, a venire meno. Meno male che adesso si parla di questo tenore di vita, eccetera eccetera. Quindi, che bello sentire una donna che parla così, eh? Fa piacere, guardi, perché si è posto un problema di uguaglianza. Sì, esatto, io penso che sia ora di smetterla, perché insomma i tempi sono cambiati. Io posso capire una giovane donna con dei bambini da crescere, e allora lì bisogna trovare però un equilibrio giusto, non che un disgraziato debba dormire in una macchina perché non ce la fa, cioè non esiste questa cosa, ecco. Grazie. Tutto qui. Vi raccomando le vedove, perché veramente è una situazione allucinante, ci sono dei casi allucinanti. Grazie, continui a seguirci, signora. Con noi al telefono Piero Fassino, oggi effigiato della vignetta di Giannelli, che racconta il suo difficile tentativo di mediazione. Direi che dopo le guerre, non so, la guerra dei 30 anni o la guerra del Vietnam, la guerra della sinistra, dentro la sinistra è una guerra molto dura in queste ore, e quindi la missione di Fassino è eroica. Buongiorno. Buongiorno. Ci svegli i suoi trucchi di mediatore, Fassino, subito. Ma non ci sono trucchi, c'è un'unica diciamo cosa da fare, quella di ragionare, e se si ragiona non c'è nessun motivo per cui non si possa trovare punti di sintesi, di unità da tutto il centro-sinistra. D'altra parte, quante ore ha passato al telefono? Beh, molte, naturalmente, al telefono, in incontri, ma questo è ovviamente il tempo dedicato a questa azione. Io voglio ricordare che sia quando abbiamo fatto l'Ulivo nel 96, sia quando si è fatta l'Alleanza dell'Unione nel 2006, la si faceva tra partiti diversi, la complessità non era minore, e allora si arrivò a un esito positivo perché tutti privilegiarono ciò che ci univa rispetto a ciò che ci divideva, e bisogna farlo anche oggi. Io non credo che ci sia impossibile determinare un accordo su questioni che tra l'altro tutti riconosciamo nelle nostre analisi, cioè la necessità di intervenire sul mondo del lavoro per stabilizzare i contratti a tempo determinato, estendere protezioni sulle fasce sociali deboli che sono quelle che hanno pagato di più la crisi, misure per rilanciare con forza investimenti a sostegno della crescita che è in corso, che è in atto. Certo, ma tutti i giornali oggi titolano sullo strappo di Bersani che dice ci vediamo in Parlamento. Lei quante possibilità si dà di riuscire? Il mediatore sul filo di lana, quante possibilità si dà di riuscire malgrado questo strappo? Intanto io voglio dire che dire ci vediamo dopo elude che prima del dopo ci sono le elezioni. Prima e dopo c'è il primo. E bisognerebbe cercare di vincerle, perché se dopo ci si vede da sconfitti, francamente non vedo che cosa poi ci raccontiamo. Quindi se vogliamo vederci dopo, sarà bene lavorare perché il passaggio elettorale veda il centro-sinistra premiato e si creino le condizioni per continuare a governare. E questo lo si decide oggi, non si decide dopo. E questa mi pare la prima questione. Quante possibilità non dipende da me. Io faccia un borsino. Dica una cosa. Una quota per i bookmaker, ma non siamo al totocalcio. 10% di riuscire? Non lo so, io non metto limiti. È difficile o è facile a questo punto? Certamente non sottovaluto le difficoltà. Quindi meno della metà delle possibilità di riuscire? Non è inutile che mi tiri un numero che non do. Io, il mio compito non è fare un pronostico, il mio compito è lavorare per cercare di arrivare a un risultato. Senta, sono... Ce la metterò tutta e poi non dipende solo da me, naturalmente. Senta, sono Oscar Giannino, gli ho dato la solidarietà da torinese ieri, ho detto non è giusto dare a Fassino i compiti sempre più difficili. Perché però? Perché ha detto lei prima, ai tempi dell'Ulivo eravamo tanti partiti diversi, lo so, ma proprio questo è il punto, tra partiti diversi la convergenza elettorale è in realtà meno complicata che tra ex di fresco di una stessa famiglia. L'esperienza più o meno funziona così, ma soprattutto oggi mi ha colpito una frase che le viene attribuita nell'intervista che c'è sul Corriere della Sera, dove lei dice le difficoltà che dividono le forze del centro-sinistra in tutta Europa, guardando le elezioni recenti, sono in realtà qualcosa di più profondo. E poi c'è scritto, le sue parole sono testualmente, che i semplici errori dell'attuale maggioranza o del PD, che pure possono esserci stati. Questa frase mi interessa perché è un po' il punto di fondo. Se lei si siede come si siede al tavolo e parla con gli altri incessantemente, dovrà pur concedere degli, come dice lei qui, degli errori sui quali il PD deve tornare indietro. Per esempio perché bisogna appassionarsi alla recriminazione? Io ho detto una cosa di buon senso, ma secondo lei ci sono governi al mondo che le fanno tutte giuste? No. Così come non ci sono governi che le fanno tutte sbagliate. Cioè proviamo a ragionare con appunto la ragione e il buon senso. Si è governato 5 anni, io penso che quando tra qualche mese consegneremo questo paese agli elettori, lo consegniamo più forte di 5 anni fa, basta vedere il trend economico. Basta ricordare in quale travaglio cominciò questa legislatura, perché le elezioni del 2013 non le vinse nessuno e ci si mise 4 mesi per fare un governo, passando per tutto il travaglio delle elezioni del Presidente della Repubblica. Oggi il paese è certamente più solido e più sicuro di 5 anni fa, questo è quello che conta. Poi, nell'arco di 5 anni si sono fatte tante cose giuste, altre probabilmente meno. Guardiamo avanti, dobbiamo aprire un ciclo nuovo, non dobbiamo scrivere un libro su cosa è avvenuto. Le volevo chiedere, la candidatura di Renzi a Premier è sul tavolo di questa trattativa? Ma non è sul tavolo di questa trattativa nessuna candidatura di Premier, per il semplice fatto che questa legge elettorale non prevede che nessuna coalizione annunci prima del voto chi sarà il Premier. Non dimentichiamoci mai, una cosa che forse bisognerebbe ricordare, che chi viene incaricato di formare il governo lo decide il Presidente della Repubblica, lo deciderà sulla base dei risultati elettorali, e se il centro-sinistra dovrà avanzare una candidatura, ovviamente, essendo un'alleanza, dovrà essere una candidatura condivisa. Lo vedremo a quel momento lì. Però lo stesso Renzi in passato aveva annunciato di essere il candidato Premier, quindi è cambiato qualcosa. Ma l'aveva annunciato in un quadro di legge elettorale diversa da quella di oggi. Quindi, Oscar, il mediatore della trattativa sul tavolo della sinistra ci sta dicendo una cosa importante. Ma guardate che l'ha detta Renzi nelle scorse settimane. Sì, però noi prendiamo atto. Il punto è che spesso il candidato potrebbe non essere per forza quello di chi prende quello più voti. Quello che sarà o non sarà lo vedremo al momento giusto. Punto, è finito. È molto abbottonato Fassino, diciamo la verità. Si capisce com'è che è impegnato in un'impresa difficile e non rivela niente. Ma si tratta di rivelare, si tratta di avere equilibrio e cercare di, ancora una volta, ripeto, io mi muovo privilegiando tutto ciò che può unire rispetto a ciò che può dividere. Ma l'ideale, oltre, diciamo così, al tema che immagino e l'abbiamo visto, quello su cui è più stretto nel dire qualche cosa, cioè appunto la trattativa, MDP e così via. Invece, per quello che riguarda le altre, tra virgolette, gambe, Renzi le ha sempre chiamate così in direzione, le ultime due direzioni, come stanno le cose della possibile tela del PD alle prossime elezioni, cioè l'area quella dei laici, l'area quella vicina all'Europa, quella dei socialisti, come stanno? Mi pare che lì i passi avanti si sono fatti significativamente, l'incontro con Pisapia ha avuto un esito positivo e stiamo continuando nel nostro confronto per individuare i punti programmatici dell'intesa. Ci sarà una lista Pisapia? Ci sarà? Una lista Pisapia sicuramente alleata del PD. Stiamo lavorando a un rassemblement di forze democratiche intorno a Pisapia che coinvolga sia Campo Progressista, che il movimento a cui ha dato vita Pisapia, sia altre forze come i Verdi, come i socialisti, come forze laiche. C'è poi una convergenza con la Bonino e i radicali, che si deve vedere poi se si sostanzia in una lista oppure in una partecipazione anche al rassemblement di Pisapia. E sul fronte, diciamo, più centrista, più moderato, c'è un'iniziativa, ecco, in corso di Casini di anche lì costruire un rassemblement delle forze moderate. Tutti i retroscena di oggi dicono Renzi, due punti, aperte virgolette, con queste liste sono sopra il 30%, condivide? Ma guardi, io non lo so, certo, la somma aritmetica sembra no, dal che i sondaggi assegnano alle forze politiche con cui noi stiamo costruendo il campo, effettivamente porta sopra il 30%. Naturalmente siamo ai sondaggi, poi naturalmente conteranno come sempre i voti veri. Bene, grazie a Piero Fassino, grazie mille, lo risentiremo se vorrà più avanti. Auguri per questa difficile trattativa. Oscar, buongiorno Fassino. Ci ha già lasciato. Ecco, Oscar. Ma gli daranno un po' di gratitudine a Piero, dai, insomma, sarà merita. Dai. Beh, sì, ma dai, non è possibile. Io quando ti ho visto in grigio verde, pensavo che eri tu che andavi al tavolo della trattativa. Ho sempre ricordato. Se andiamo indietro alla memoria, alla storia di Fassino, leader, è uno che ha sempre dato più che preso per sé, ha fatto marcia indietro per tutti gli incarichi della Repubblica perché qualcuno all'ultimo secondo diceva no, ci vado io, e lui non ha mai fatto l'ombra di una polemica. Temo che questo infatti sia nella politica italiana più che un motivo di vanto e di merito riconosciuto, una cosa che gli altri si prendono contro di te. Questo è... Stiamo parlando della trattativa della sinistra, del divorzio insieme, e ora c'è un ascoltatore che vuole intervenire sul divorzio e non so se parla di Renzi. Quale dei due? Bersani o di Grilli e Berlusconi. Però i messaggi sono molto divisi, hai visto? Nettissimi. Sì. C'è chi dice il candidato premier sarà Renzi, indicato da Berlusconi. C'è chi dice Renzi perderà. C'è chi dice Bersani fa perdere. E noi sentiamo Alessandro. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Sono Alessandro, chiamo da Novara. Sentivo questa mattina che parlavate di quello che è il nuovo atteggiamento della giurisprudenza in relazione all'assegno di borsile, eccetera. C'è un altro problema di cui non si parla mai e che purtroppo affligge parecchi padri, che è quello della bigenitorialità, ovvero l'affidamento, esattamente, gli stessi diritti di poter educare, di poter vivere i propri figli dopo la separazione. Nel mio caso specifico io sono stato allontanato, letteralmente allontanato dai miei figli quando avevano 5-8 anni. Ora quanti ne hanno? Ora ne hanno 12 e 16, quindi diciamo sono passati 7 anni. Io mi sento una persona finita perché non ho potuto vivere. Finita. Sì, perché non ho potuto vivere il rapporto con i miei figli e questa per me è stata una grossa pena. Purtroppo non ho avuto da parte delle istituzioni il giusto rispetto, la giusta attenzione in relazione ad un qualche cosa che mi sembra il più naturale, perché se ho deciso di fare dei figli ovviamente avevo l'aspettativa di poterli aiutare a crescere, di poter essere loro vicino. Purtroppo anche dovuto alla distanza, diciamo alla distanza rispetto alla loro dimora abituale, questa cosa è stata un po' diciamo strumentalizzata e quindi io praticamente ho un rapporto che definisco ludico o comunque un rapporto che si sta deteriorando, che si è deteriorato nel tempo. Ovviamente aspetta la maggiore età, immagino, con grande speranza. Aspetto la maggiore età con grande speranza, sì. Loro vorrebbero vederla. Ma sì, in realtà diciamo ci si vede abbastanza regolarmente, ovviamente in relazione alle disponibilità loro e mie, però la continuità giornaliera, molti mi parlano di qualità del tempo, io dico che comunque la quantità del tempo passato con i figli è fondamentale, perché la qualità è un qualche cosa che è difficilmente definibile. La quantità, il vivere giornalmente i propri figli è una cosa importante. Grazie e Alessandro. Di questo, grazie. Buongiorno. No, voglio dire, nella sua voce sento grande civiltà e anche grande sofferenza. È un equilibrio difficile, quindi la ringraziamo, le facciamo gli auguri, perché solo sentire quello che lei ha subito, io e Oscar tremiamo. Allora, Giuliana Di Pillo è con noi al telefono, la vincitrice della sfida di ieri di Ostia, che è interessato tutta l'Italia. Lei ha una conferenza stampa fra poco alle 11, quindi è una sorta di anteprima che regala agli ascoltatori Radio 24. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Guardi, siamo una grande emozione, è stato un gran lavoro che abbiamo portato avanti con i nostri attivisti, con tutti i portavoce del movimento, con i cittadini, stando in piazza, diffondendo appunto il nostro programma, lavorando sempre veramente nelle piazze. Ieri mattina lei avrebbe scommesso di farcela? Ma guardi, io devo dire la sincera verità che ero fiduciosa perché negli ultimi giorni, stando veramente in piazza e vedevo i cittadini che passavano, che noi davamo ovviamente i nostri volantini, dicevano no, non lo prendo, guarda, perché tanto voto per voi, già lo so, già. Quindi io ho visto veramente una grande fiducia nelle persone che passavano e quindi Che dire, uno scaramanticamente fa sempre, dice, non si esprime mai, però nel mio cuore lo sapevo, lo sentivo più che altro, lo sentivo, e anche perché il lavoro veramente è stato un lavoro portato avanti con serietà, portato avanti con eravate serietà due insegnanti, un derby nella scuola italiana. Un derby nella scuola, e questo voglio dire, sì. Ma si aspettava le polemiche del giorno dopo? L'hanno votata gli Spada, i 5 Stelle hanno vinto l'idroscalo. Guardi, noi dobbiamo pensare a lavorare, su questo territorio, il lavoro sarà duro, va portato avanti con serietà, con responsabilità e consapevolezza, che veramente ci aspetta un grande lavoro. E un quindi grande non lavoro risponde alle perché, polemiche. Anche perché un grande lavoro, anche perché guardi, è importantissimo che tutti quanti i cittadini riconquistino fiducia nelle istituzioni. Senta, e di questo tasso di partecipazione al voto, ha votato solo 1 su 3, non esprime innanzitutto proprio sfiducia assoluta verso tutti e verso tutto. Lei come lo legge questo dato? Io dico che noi dobbiamo lavorare per far sì che appunto tutti i cittadini riacquistino l'amore nei confronti dell'istituzione, la fiducia nei confronti dell'istituzione, e noi lavoreremo veramente facendo partecipare i cittadini, quindi sarà un lavoro che porterò avanti e porteremo avanti con tanta responsabilità, e investendo anche tutti i comitati, tutte le persone insomma di partecipazione, facendoli stare al nostro fianco. Vi siete telefonate quindi con Monica Picca come fanno i presidenti americani? Ha riconosciuto la sconfitta? Veramente io no, ancora non l'ho sentita, ma avremo modo comunque di, sicuramente, voglio dire, consiglio, dovremo lavorare tutti insieme. Però la domanda corretta era se la perdente avesse chiamato lei, non ha detto che non l'ha sentita. Senta, come festeggia? E veramente abbiamo festeggiato noi ieri sera tutti insieme, appunto con il nostro gruppo, siamo stati insieme, ci siamo scambiati le nostre impressioni, tutto ciò che avevamo nel cuore, insomma. Ma quindi niente vacanze, niente subito al lavoro? Adesso c'è da lavorare immediatamente, non si può perdere neanche un minuto, insomma, quindi adesso bisogna mettersi subito al lavoro. Allora, grazie, ci sarà tempo. Non abbiamo spoilerato, come dicono terribilmente quando si parla dei film, la sua conferenza stampa alle 11. Facciamo tutti gli auguri. Aldo da Torino. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Allora io mi ricollego invece alle parole di Fassino di prima, che adesso quando si entra nel vivo della campagna elettorale ti senti sempre più un numero, nel senso adesso noi non possiamo neanche più andare a votare, insomma, sperando di avere un candidato premier e soprattutto un governo. Noi siamo arrivati ad avere una legge elettorale che si prende il lusso di decidere dopo chi e dove mettere. Io adesso mi sono sentito un elettore che dico, va bene, ok, io voto un partito, una coalizione, ma chi mi rappresenterà poi? Io penso che la prima cosa che un partito, una coalizione debba fare è dire, se io vado al governo, lui sarà candidato premier, questi sono i ministri, questo è il nostro programma. Caro Aldo, Renzi e Berlusconi hanno voluto una legge elettorale in cui nessuno deve vincere, poi loro possono dire quello che vogliono, Renzi dice che è colpa degli italiani il 4 dicembre e non si è mai votato su leggi elettorali, ma tutti i renziani continueranno a ripeterlo, sanno di mentire, però lo ripetono, la propaganda è così. Hanno voluto una legge elettorale nella quale, viste le incertezze dell'uno e dell'altro per difficoltà completamente diverse, hanno detto, ma hai visto mai che vince il terzo? Giammai! Ecco come nasce la legge Rosato, una legge che ovviamente, come al solito, non assume nessuno schema di legge elettorale che funzioni nei paesi occidentali da decenni, ce ne siamo inventati un'altra, il fine è questo qua, è un fine non dichiarato ma pratico. Quello che lei lamenta è la cosa che dovrebbero tutti gli elettori, meno che partecipino direttamente ai partiti e si riconoscono la leadership dei due suddetti, dovrebbero dire, mio Dio che schifezza di legge elettorale. Questa è la mia opinione secca, proprio a tanti difetti, ma quello di fondo è esattamente quello lì che ha detto lei. Ma lei non perda la sua passione civile, Aldo. Siamo qui accesi. Ma fare battaglia fare contro i leader politici in cui non ti riconosci è la più alta ma forma infatti, di passione civile. Quindi. Grazie, Aldo. Donatella da Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo tornare sul discorso dell'assegno di borsile. Sì. Allora, premetto, sono sposata da 27 anni perché qui ho l'impressione che certi interventi come quello di un'ascoltatrice poco fa siano dovuti più che altro alla propria esperienza personale. Invece qui bisogna allargare un po' la visione, ecco. Ma allora, lei è a favore del fatto che ci debba avere come riferimento ancora la perduranza della condizione di reddito quando si era sposati, oppure è giusto che i giudici invece che rimanere fermi a quelli dicano ma no, consideriamo l'età e l'occupabilità e non la perduranza di quel reddito? Io sono come dire favorevole al fatto che esista una condizione di cura, sono favorevole al fatto che esistano delle differenze salariali e quando queste due cose si metteranno a posto tutte le donne rinunceranno senza problemi all'assegno divorzile, ma finché permane una diseguaglianza, cioè, quando finiranno le differenze salariali fra uomo e donna, certo, non vabbè, sono salariali, no, signora mi sembra come dire pazienza. Quando ci sarà il sol dell'avvenire scusi, ma se le donne devono investire tempo e denaro rinunciando alla propria carriera per stare dietro a famiglia e figli e gli uomini non condividono questo lavoro, mi permetta, ma questa diseguaglianza non verrà mai colmata. E allora io dico, tutte noi donne siamo per l'equa distribuzione dei sì. pesi e dei gravami, tutte le donne sono disposte a rinunciare all'assegno divorzile quando il mercato del lavoro accetterà. Quindi l'assegno divorzile è l'unico strumento in cui davvero bisogna fare subito l'eguaglianza. Beh, interessante. Allora, grazie Donatella. Sentiamo Maura da Torino. Buongiorno e vi ringrazio di questo tempo e questo spazio. E ci mancherebbe. Dunque, secondo me la situazione è molto più complicata e soprattutto c'è una situazione non nota, poiché i padri stanno strumentalizzando, soprattutto la nuova legge, quella sull'affidamento condiviso, poiché io sono una ex moglie che ha rinunciato al mantenimento, quindi il famoso mantenimento in favore della moglie, e ha fatto di tutto per favorire il rapporto padre-figlio, tant'è che mio figlio vive una settimana a casa del padre, una settimana a casa mia. Maura, bisogna farle un monumento a lei, è una direi mosca di sì. bianca. Io guadagno e va bene, dico va bene però, questo equilibrio. Però ammetto che anche dire, noi stiamo parlando della signora divorzia tra coniugi che prescinde da quello che i giudici decidono per il mantenimento dei figli, sono due cose diverse. Dunque capisco e mi rendo conto, però vorrei rappresentarvi questo: i figli a questo punto vengono assolutamente trascurati dai padri sotto il profilo del mantenimento loro dovuto, e mi permetto di segnalarvelo perché adesso i padri, nel mio caso io appunto ho rinunciato assolutamente all'assegno per me, mi mantengo da sola, mantengo mio figlio, mio marito, mio ex marito sono oltre 5 anni che non paga il mantenimento al figlio minore. Quindi io col mio risicato stipendio, campo mio figlio, ho dovuto accettare che il mio ex marito avesse l'amante, quindi futura seconda.